Focus Economia. Sette, otto minuti, cari ascoltatori, buon pomeriggio, ben ritrovati in una nuova puntata di Focus Economia. Non c'è oggi la consueta, solida conduzione economica di Sebastiano Barisoni, ma insomma ci sono io, Alessio Maurizi, e in prestito dalla redazione cercheremo comunque di raccontarvi i fatti economici della giornata. E naturalmente i fatti ruotano attorno alla non decisione della Banca Centrale Europea, che non ha tagliato i tassi di interesse, come sapete, anche se Mario Draghi non ha mancato sia di fare dichiarazioni che sono sui titoli di tutti i giornali, cioè non incolpiamo solo l'Europa della crisi, sia di immettere così qualche strumento, insomma, di sul mercato per non lasciare tutti a bocca asciutta. E c'è un rilancio dell'iniezione di liquidità sui mercati, cercheremo di capire di che cosa si tratta. C'è anche spazio per la ricerca del Centro Studi di Confindustria, che purtroppo evidenzia come l'Italia perda nuove quote di mercato nel campo della produzione manifatturiera sulla scena internazionale. Un piccolo segno di speranza e di ottimismo, cercheremo di vederlo proprio dalle zone più difficili, più in crisi in questo momento, la crisi nella crisi. Parliamo del terremoto dell'Emilia Romagna. Mirandola, al centro del distretto biomedicale, cerca di rilanciare le proprie attività commerciali, vedremo come, con un altro ospite. Un focus anche sulla Francia, dove, lo diciamo subito, forse non a sorpresa per chi conosceva la campagna elettorale di Hollande, ma si torna indietro sulle pensioni. C'è di che domandarsi, insomma, se per le finanze pubbliche francesi che impatto avrà questa decisione. Si riscende da 62 a 60 anni. Era stato un cavallo di battaglia della riforma previdenziale di Sarkozy. Ma iniziamo subito a sentire le notizie, le principali notizie economico-finanziarie della giornata. Cominciamo con la quotazione del petrolio a New York, sopra gli $85, $85.90 al barile. Il Brent è risalito sopra i $100. C'è da dire, forse, se vogliamo trovare un motivo di ottimismo, insomma, basta confrontare queste quotazioni con quelle pre-crisi, che erano molto più alte. Insomma, è una delle poche buone notizie di questi tempi, ma insomma poco conta. Notizie invece sul fronte della crisi: continuano le schermaglie tra l'Europa e gli Stati Uniti. La Casa Bianca auspica azioni rapide da intraprendere nelle prossime settimane, anche in vista del G20, da parte dell'Europa per affrontare la crisi del debito. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca oggi. E intanto Obama e il premier britannico Cameron si sono sentiti al telefono e hanno concordato, loro che si sentono fuori dai guai e sono sicuramente fuori da quelli europei di guai dell'euro, si sentono di concordare sul fatto che sia necessario un piano immediato per la crisi dell'eurozona. Così Obama e Cameron. E poi, dicevamo, la Banca Centrale Europea, il consiglio direttivo presieduto dal nostro Mario Draghi, ha deciso di mantenere invariato all'1% il tasso di riferimento principale dell'Eurolandia. C'erano molte attese perché questo invece non fosse il risultato della riunione di oggi della BCE, cioè che ci fosse un taglio. Probabilmente, leggendo tra le parole di Draghi, adesso poi le sentiremo, il taglio è solo rimandato nella prossima riunione di luglio, ma insomma prendiamo atto, questa è la decisione di oggi della BCE. C'è spazio anche per capire, come sempre, dalle dichiarazioni del governatore della BCE, un po' lo stato della situazione economica. Insomma, le previsioni non sono, le stime non sono positive, e vedremo più avanti nel dettaglio anche questo. Lo spread italiano scende sotto i 430 punti, mentre il differenziale tra i decennali spagnoli e tedeschi risale sopra i 500 punti base. Non c'è dubbio che, insomma, la Spagna sia adesso nel mirino un po' dei mercati. Sul fronte tedesco, perché non si dica che, insomma, la Germania è esente da tutto in questa fase, non è affatto così, Moody's ha tagliato il rating di 7 banche tedesche, tra le quali anche Commerzbank, che è il secondo istituto bancario del paese. e questo quindi sul fronte delle banche. Le banche che oggi a Piazza Affari vanno piuttosto bene, se non sarò smentito più avanti dalle notizie degli ultimi minuti. Dichiarazioni sempre sul fronte crisi, sul fronte banche, del commissario per il mercato unico Barnier, che dice, ricorda in realtà, tra il 2008 e il 2011 gli stati europei, insomma, fa capire che i muscoli europei ci sono, le iniziative ci sono state. Abbiamo speso in aiuti di Stato per le banche in crisi 4.500 miliardi di euro. È difficile capire se siano tanti, se siano pochi, sono sicuramente tantissimi, però giudicare da come vanno le cose forse non sono abbastanza, o forse non era l'unica ricetta utile per uscire da questa crisi. Dicevamo delle stime economiche, ci sono quelle di Eurostat sull'Unione Europea, crescita zero per il PIL quest'anno, nel primo trimestre dell'anno siamo proprio fermi, insomma. In questo stesso periodo però dell'anno, i primi tre mesi, l'Italia è riuscita a fare di peggio, meno 0,8% secondo Eurostat. Un risultato, il risultato anzi peggiore tra tutti quelli riportati da Eurostat. Siamo secondi solo all'Ungheria, meno 1,3%, Repubblica Ceca meno 1%. E così ci si lega facilmente all'analisi del centro studi di Confindustria, che mette a fuoco un progressivo calo della capacità italiana di imporsi sulla produzione manifatturiera internazionale. L'Italia, leggiamo, soffre la recessione, un feroce credit crunch, la bassa redditività. Lo rileva il centro studi di Confindustria. L'Italia arretra per produzione manifatturiera, scivola dalla quinta all'ottava posizione, scavalcata da India, Brasile e Corea del Sud, tre vere e proprie giganti, soprattutto l'India e il Brasile naturalmente, dell'economia mondiale. Tanto che il centro studi di Confindustria dice è a rischio la stessa produzione, scusate, la stessa sopravvivenza di parti importanti dell'industria italiana. Dicevamo che cercheremo di dare con un focus attorno alle 18:15 un po' di ottimismo in questa giornata, guardando a come tenta di ripartire Mirandola, uno dei comuni più colpiti dal terremoto dell'Emilia-Romagna, però, secondo il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, realisticamente bisogna dire che insomma, la zona colpita dal terremoto produce poco più dell'1% del nostro PIL, che non è una quota ampia, come si può evidentemente capire. Ci sono zone anche geograficamente limitate quelle che sono state colpite dal terremoto, però non è poco l'1%, fa capire Squinzi. E qua rischia di aggiungersi crisi su crisi, perché queste zone rischiano uno stop per 4-6 mesi, chi può prevedere se ce la faremo prima a riprendere, e quindi rischiamo qualche ulteriore frazione di PIL in meno per via del terremoto che purtroppo ha sconvolto l'Emilia Romagna. Prima della pausa sul traffico, no, non abbiamo la pausa sul traffico a quest'ora, scusate, prima di niente allora, in realtà altri segnali sul fronte della crisi, segnali italiani come la cassa integrazione che ha ripreso a volare, più 22,5% a maggio, sono 105 milioni le ore di cassa integrazione chieste dalle aziende, con un aumento appunto del 22% rispetto ad aprile e del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. C'è spazio anche per l'aumento della conflittualità registrata dalla Commissione di garanzia degli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che registra nel 2011, cioè l'anno scorso, insomma, 2.219 scioperi proclamati nei servizi pubblici essenziali. Di questi ne sono stati fatti concretamente solo, si fa per dire, 1.339, che sono comunque il 6,4% in più rispetto all'anno scorso. Adesso invece qualche notizia particolare sul fronte della crisi, notizie in questo caso che lasciano di stucco. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. La notizia è questa, insomma, tocca andare a Wall Street ancora una volta. Di fronte al tracollo di cui parliamo purtroppo tutti i giorni, di banche, fondi, istituzioni finanziarie, insomma degli stati, c'è chi la crisi non la sente minimamente. Nel 2011 gli stipendi medi dei primi 50 amministratori delegati di Wall Street sono aumentati, secondo la classifica stilata dal magazine Bloomberg Markets, in base ai documenti ufficiali consegnati dalla SEC, l'autorità di borsa americana, e sono aumentati non di poco, dell'1, del 2, del 3, del 4, del 5%, ma del 20%. Cioè l'anno scorso, mentre tutti tiravano la cinghia e insomma la cronaca era quella di una crisi continua, soprattutto crisi degli stati, crisi dei debiti, ebbene insomma gli stipendi dei primi 50 amministratori delegati di Wall Street sono saliti del 20%. Ci sarebbe spazio anche per fare nome e cognomi, ma insomma è inutile perché ci si fa solo del male. E allora fermiamoci qua con le notizie per ora e tra poco con il primo focus, con il primo approfondimento di oggi. Partiamo naturalmente dalla non decisione della Banca Centrale Europea e del suo presidente Mario Draghi, che ha anche spiegato perché, anche se non tutti i membri del board erano d'accordo, non è stato tagliato il tasso di interesse, cioè non è stato tagliato il costo del denaro come qualcuno aspettava, anche se sui giornali di oggi forse avrete letto un po' di analisi, insomma non è che si può aspettare tutto dal taglio dei tassi di interesse, però era una possibile strada. Cercheremo di capire se è stata solo rimandata alla prossima riunione di luglio oppure se invece non è così. Salutiamo Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buon pomeriggio Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, prima di commentare, sentiamo un passaggio della conferenza stampa di Draghi. Insomma, sono diverse le cose che ha detto, si è tolto anche qualche sassolino forse dalle scarpe, ma insomma sono dichiarazioni forse non così pesanti come i giornali sembrano riportare, quelle su questo scambio di battute tra i due sponde dell'oceano, tra l'Europa e l'America, che continua a dire all'Europa svegliatevi, fate qualcosa. Draghi ha detto non è giusto dare la colpa della crisi solo all'Europa. Al di là di questo ci sono anche delle analisi e anche delle notizie da dare. Cominciamo, Alessandro, se sei d'accordo, a sentire una parte dell'intervento di Draghi che parla proprio del mancato intervento sui tassi di interesse. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Ci aspettiamo che l'inflazione resti sopra il 2% per il resto del 2012. Le attese circa l'inflazione per l'area euro restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Allo stesso tempo, la crescita economica nella zona euro rimane debole. Il livello elevato di incertezza pesa sulla fiducia e aumenta i rischi al ribasso per lo scenario economico. La decisione relativa ai tassi di interesse è stata presa con consenso, anzi direi con un consenso molto ampio. La decisione è stata presa con consenso. Alessandro Merli, io non sono un esperto, vuol dire non all'unanimità, cioè c'era qualcuno che invece avrebbe voluto agire forse diversamente. E poi, secondo te, a questo punto il taglio che tutti aspettavano ci sarà a luglio, non ci sarà? A te Alessandro di interpretare le parole che abbiamo sentito, come sempre hanno bisogno di essere così spiegate un po' in punta di penna. Beh, per quello che riguarda il consenso o non consenso, Draghi ha detto che i dissenzienti sono stati pochi, però un dissenso c'è stato, c'era qualcuno che evidentemente voleva tagliare subito. Credo che sulla base delle previsioni sull'economia che ha fatto la BCE, che queste sì veramente a sorpresa non sono state ritoccate al ribasso, a quel punto fosse in un certo senso la scelta logica di non tagliare i tassi. Draghi ha ricordato ancora una volta che in termini nominali sono ai minimi storici, in termini reali, cioè depurati l'inflazione, i tassi di interesse in Europa sono di fatto negativi, quindi non necessariamente un taglio dei tassi di interesse sarebbe stato di così grande aiuto, anche se qualche analista ritiene che almeno tagliando i tassi forse sarebbe indebolito ulteriormente l'euro e quindi dato una piccola spinta all'economia, oltre a favorire le banche, che naturalmente a questo punto si rifinanzierebbero a tassi più bassi. Uno spiraglio a un taglio dei tassi a luglio c'è, nel senso che Draghi naturalmente non anticipa niente, ma non lo ha del tutto escluso. Credo che i segnali che arrivino dall'economia siano più negativi di quello che la BCE ha riconosciuto nella sua analisi di oggi. Di fatto tutte le previsioni indipendenti sono peggiori di quelle avanzate dalla BCE. Quindi per quello che riguarda i tassi è possibile che a luglio alla fine si arrivi a questo taglio, che sarebbe veramente storico, perché finora nella vita dell'euro non era mai sceso. Il tasso ufficiale non è mai andato sotto l'1%. E però qualche notizia per le banche sul fronte della liquidità c'è. Tu adesso ci spiegherai come insomma lo strumento che è stato scelto, però Draghi ha detto che insomma per le banche la possibilità di rifinanziarsi a tassi dell'1%, se non sbaglio, proseguirà. Cioè la BCE continua a immettere liquidità, uno strumento che, se non fosse per questo annuncio che ha fatto Draghi, mi sembra di aver capito, non insomma, si sarebbe interrotto con il mese di giugno, invece si va avanti. Di fatto nell'autunno scorso, quando le cose erano sull'orlo del tracollo sui mercati finanziari, la BCE si è dotata di questo strumento di fare queste iniezioni di liquidità a tasso fisso e illimitate alle banche. Poi a un certo punto le ha anche molto allungate, a dicembre, a febbraio, addirittura le ha fatte sull'arco di 3 anni. Ora Draghi non ha annunciato altre operazioni a 3 anni, però ha detto che queste operazioni invece a tasso fisso e per quantitativi limitati su dei periodi più brevi continueranno, quindi le banche in un certo senso possono continuare a contare sulla liquidità della BCE. Io credo che quella che può essere giudicata un'immobilità della BCE di fronte a una crisi così grave dipende anche un po' dal momento politico, cioè a fronte dell'imminenza sia delle elezioni in Grecia che delle elezioni politiche in Francia, che soprattutto del vertice europeo di fine giugno, che dovrebbe finalmente prendere qualche decisione, forse la BCE ha voluto riservarsi di aspettare o comunque di non allentare la pressione sui politici perché siano loro stavolta a fare qualcosa, dopo che nei mesi scorsi la BCE ha fatto molto. Alessandro, si è parlato molto in questi ultimi giorni, insomma, dopo che la Spagna ha ammesso chiaramente, pubblicamente, in maniera trasparente, insomma, aspirare a fare ricorso agli aiuti europei per il sistema bancario, di questo argomento, se ne ha parlato anche prima per la verità di questa missione, però adesso l'argomento è sul tappeto e anche Draghi è intervenuto su questo dicendo la Spagna deve essere realistica. Sentiamolo e poi cerchiamo anche qua di decriptare le parole del governatore della BCE. I don't view as the ECB's task to push governments into doing something. Non penso che il compito della Banca Centrale Europea sia di spingere i governi a compiere determinate azioni. Solo gli stati possono prendere alcune decisioni, come quella di accedere o meno al fondo di emergenza e FSF. Penso che qualsiasi decisione circa il fondo di emergenza dovrebbe basarsi su una valutazione realistica dei requisiti per ricapitalizzare le banche e sui soldi a disposizione degli Stati, senza che ci sia bisogno di ricorrere a un aiuto esterno. La valutazione deve essere realistica e deve essere basata su numeri e cifre. Alessandro Melli, abbiamo sentito le parole di Mario Draghi, non è una porta chiusa, ma che cos'è questa dichiarazione di Draghi rispetto al sistema bancario spagnolo per quanto riguarda il ruolo che può avere la Banca Centrale Europea? Ma insomma, Draghi dice in sostanza una cosa: il governo spagnolo è stato molto riluttante per parecchi mesi addirittura a riconoscere che ci fosse un problema nelle banche del paese. Adesso finalmente questo problema è stato riconosciuto, Draghi dice fate una valutazione realistica, cioè di quanti soldi hanno bisogno le vostre banche per essere ricapitalizzate adeguatamente e dall'altra parte quanti soldi avete in cassa per ricapitalizzarle senza ricorrere a un aiuto esterno. Credo che in queste due domande un po' retoriche ci sia già la risposta, cioè la Spagna non ha nel proprio bilancio risorse sufficienti per ricapitalizzare le banche con denaro pubblico, a questo punto dovrà ricorrere agli aiuti europei. Il problema è che la Spagna vorrebbe che questi aiuti andassero direttamente nelle banche in modo che non passando dal bilancio dello Stato non aggravino ulteriormente il debito, però questi strumenti di aiuto europeo al momento non sono disegnati, non sono congegnati in modo da fare prestito o addirittura immettere capitale direttamente nelle banche, sono fatti per passare attraverso i governi e quindi poter imporre poi ai governi che rispettino determinate condizioni e attraverso di essi vadano a finire nelle banche. Draghi si è posto anche questa domanda, ma se questi fondi europei dovessero diventare azionisti delle banche spagnole, allora come funzionerebbe la cosa? Insomma, questo non è previsto al momento dagli statuti di questi fondi, di questi strumenti, per cui soprattutto considerato che il fondo permanente poi europeo per il cosiddetto salva stati, l'ESM, non è ancora stato ratificato, forse un po' prematuro gli di mandato in corsa. Esatto. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Noi fin qua abbiamo amabilmente chiacchierato, tu ci hai spiegato un po' quelle che sono insomma le notizie vere della conferenza stampa oggi di Mario Draghi, governatore della BCE. Però se io vado a vedere sui siti online, probabilmente anche sui giornali domani, il titolo è BCE Draghi, le colpe della crisi dell'Europa ma anche di altri paesi. Anche il nostro sito, il sito del Sole 24 Ore, riporta la stessa notizia in testa agli articoli che parlano di quello che ha detto Draghi. Cioè, insomma, c'è spazio anche per questa, come vogliamo chiamarla, polemica, per questa questione tra le due sponde dell'oceano. Abbiamo letto tra le notizie di oggi, la Casa Bianca continua a chiedere, d'intesa tra l'altro con il premier britannico Cameron, piani, interventi urgenti dell'Europa per risolvere la crisi, e Draghi dice a un certo punto, scusate, però non è che la colpa della crisi è tutta dell'Europa, e guardando per esempio anche solo ai debiti degli stati, vabbè, insomma, non sono molti quelli che possono dire di essere esenti. Alessandro. Ma hai fatto una descrizione molto accurata della situazione, cioè di quello che ha detto Draghi, cioè di fatto Draghi con un tono un po' polemico ha detto vabbè, tutti mettono pressioni su di noi, naturalmente gli Stati Uniti, l'amministrazione Obama, perché c'è una elezione presidenziale in arrivo, Obama è molto preoccupato che un eventuale tracollo dell'Europa possa trascinare con sé l'economia americana che già non se la passa troppo bene, un po' tutti gli altri hanno trovato nell'Europa il capro espiatorio, però dice non è che se l'economia mondiale sta rallentando e adesso stanno rallentando anche i paesi emergenti, tutto può dipendere dall'Europa, qualcuno guardi un po' anche in casa propria, e ha detto proprio questo, ci troveremo alla fine della prossima settimana al G20 in Messico, allora i paesi facciano un po' un esame di coscienza se hanno fatto tutto quello che dovevano fare intanto a casa propria prima di cominciare a puntare l'indice. Sicuramente l'Europa è oggi il problema più evidente, più macroscopico dell'economia mondiale, però insomma Draghi ha voluto dire non proprio tutti hanno fatto quello che dovevano fare per mettere le cose in carreggiata, forse a partire direi dagli stessi Stati Uniti. Benissimo, e questa polemica sicuramente andrà avanti, insomma questa serie di dichiarazioni incrociate credo almeno fino alle elezioni americane. Grazie Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, buona serata. Grazie a voi, buonasera. E va bene, allora siamo giunti alla prima pausa, c'è il meteo, un po' di pubblicità, poi torniamo e faremo il punto anche sulla borsa, che sin qua non abbiamo detto, ma la giornata è molto brillante, Piazza Affari adesso siamo in chiusura, più 3,5%, tutti gli indici in grande spolvero, vedremo di fare un focus tra poco, come sempre con i colleghi di agenzia di stampa Radio Coro il Sole 24 Ore, poi parleremo anche di Francia con questo ritorno al passato. passato 60 anni per l'età minima per andare in pensione. Prima di procedere con il racconto della giornata, un piccolo aggiornamento di borse, così doveroso, visto che in apertura non abbiamo dato gli indici. Piazza Affari più 3,5% sul FTSE MIB, direi che a questo punto è la chiusura. Banca Popolare dell'Emilia Romagna in grande spolvero più 9,72%. Insomma, l'elenco dei titoli che oggi brillano e recuperano terreno è piuttosto lungo. Azimut più 7,8%, Lottomatica più 7,28%, Finmeccanica più 7%, bene con guadagni sopra 5 punti anche Telecom, Mediobanca, Mediolanum, Intesa San Paolo, attorno ai 5 punti per Fiat Industrial, naturalmente Banca Popolare di Milano, Exor, Unicredit, insomma, e via discorrendo. Tra i principali titoli non ce n'è nessuno che arretra, se non forse Parmalat, che è praticamente invariato, meno 0,06%. In America il Dow Jones adesso segna l'1,66% di rialzo, il Nasdaq l'1,95%. Bene anche Francoforte, Parigi più 2,4%, insomma, questo è il tenore della giornata in borsa. A Londra il guadagno anche qua è di più del 2%, più 2,23%. Tra poco faremo gli approfondimenti, adesso però andiamo in Francia. Leggiamo dal Sole 24 Ore di oggi. Hollande rivede le pensioni, esteso il ritiro anticipato a 60 anni a chi ha contributi per almeno 41. Si torna indietro da questo punto di vista rispetto al cavallo di battaglia della riforma previdenziale di Sarkozy. Insomma, per chi non ha seguito la campagna elettorale francese, era una delle promesse, credo, di Hollande, per chi non è dentro al dibattito in Francia, per chi non conosce forse anche la tradizione del politica e riformista del socialismo francese, c'è di che rimanere insomma bocca aperta. Ma come, mentre tutti tirano la cinghia, qua ci si può permettere un abbassamento dell'età pensionabile. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto salutiamo Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a voi. E poi cerchiamo di capire, la notizia c'è, il Consiglio dei Ministri ha previsto per oggi, c'è stata questa approvazione, e di che cosa si tratta esattamente, Marco? Ma dunque, le cose stanno un pochino nel mezzo rispetto alla presentazione che hai fatto tu, cioè nel senso che il messaggio politico è quello del ritorno ai 60 anni per poter andare in pensione, e questo è quello che serve in questo momento al Partito Socialista alla vigilia dell'appuntamento con le elezioni legislative di domenica. Nella realtà le cose sono un pochino diverse, l'età legale per poter aver diritto ad andare in pensione rimane quella dei 62 anni fissata dalla riforma Sarkozy, viene ampliata la possibilità per i lavoratori precoci, per chi ha cominciato a lavorare molto presto, di poter andare in pensione anticipata. Attualmente la legge prevede che possano andare in pensione anticipata le persone che hanno cominciato a lavorare prima dei 17 anni e che hanno maturato almeno 43 anni di anzianità contributiva, e in realtà da partire dal novembre prossimo, con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, questa possibilità viene estesa a chi ha cominciato a lavorare prima dei 19 anni e ha maturato 41 anni di anzianità contributiva. Insomma, riformismo hollandiano, ma con dosi anche di realismo. Quali sono stati in questi giorni e anche in queste ore, visto che rispetto alle previsioni la notizia si è leggermente modificata, attenuata forse nell'impatto forte che poteva avere a livello di opinione pubblica, quali sono i commenti insomma in Francia che si fanno su questo intervento di Hollande? Avvicina, allontana rispetto a quello che dovrebbe essere il percorso comune degli altri partner europei? C'è da parte per esempio dei sindacati soddisfazione? Quali sono i commenti che registri in queste ore su questa notizia che, ripeto, vista dal nostro punto di vista ha comunque un significato simbolico, insomma significativo, Marco? Intanto la misura era attesa, perché come hai detto tu era nel programma elettorale di Hollande, e quindi è una delle misure che lui aveva annunciato che avrebbe preso rapidamente. Ovviamente da parte dei sindacati c'è soddisfazione, anche se come sempre avrebbero voluto qualcosa in più, da parte del MEDEF, della Confindustria francese, c'è una sostanziale rassegnazione, nel senso che la misura era attesa, era prevista e quindi è stata presa. Dal punto di vista dell'impatto sui conti pubblici non dovrebbero esserci problemi, perché la misura, che peraltro costerà meno rispetto al previsto, si era parlato di 5 miliardi l'anno, in realtà il regime saranno 3 miliardi, viene ampiamente coperta con un aumento dello 0,1% a carico dei dipendenti e a carico delle aziende dei contributi previdenziali per i prossimi anni. E insomma, ripetiamo, la notizia in parte attenuata, però l'effetto è questo: c'è un parziale ritorno all'età dei 60 anni. Io non so se su questo, Marco, è possibile fare insomma un confronto rispetto a quello che accade negli altri paesi. Oggi il Sole 24 Ore riporta una tabella piuttosto approfondita, però questa quantomeno una tua valutazione, questa misura. Beh, non c'è dubbio che la Francia ha un sistema di welfare sicuramente più favorevole ai lavoratori rispetto a tutti gli altri paesi. Questa è una tradizione peraltro francese. Sicuramente bisognerebbe mettere mano con riforme strutturali più importanti. Non è detto che questo non accadrà. Lo stesso Hollande ha più volte annunciato che questo è un provvedimento, diciamo, in qualche modo straordinario. Le pensioni, il sistema previdenziale richiede comunque una riforma strutturale, questa si farà e se ne comincerà a parlare con sindacati e imprenditori nella conferenza sociale già fissata per i primi giorni di luglio. E allora, insomma, la Francia potrebbe torna ad essere, insomma, per chi ci vuole vedere dei segnali o anche no, insomma, un cantiere, almeno in queste settimane, in questi giorni, pre-elezioni legislative, come giustamente ricordavi tu, il fermento è naturalmente massimo, poi vedremo anche quali saranno le ricadute di tutto questo. Grazie intanto a Marco Mussanè da Parigi, buon pomeriggio, buona serata. Grazie a voi. E allora, 17.44, dicevamo, insomma, questa è la situazione francese e sarà sicuramente interessante vedere se la spinta di questo riformismo di Hollande si propagherà sulla Francia prima di tutto e se avrà delle ripercussioni invece anche sul resto dell'Europa. Siamo al momento della borsa, però visto che invece abbiamo anche la pausa del traffico, salutiamo intanto Livia Zancaner, buon pomeriggio. Buonasera. Collega di Radio Coro Il Sole 24 Ore, ti teniamo lì, gli indici li abbiamo già letti, una giornata tutta molto positiva, in particolare vediamo insomma in pole position i titoli del settore bancario. Quando si parla di pensioni, insomma, c'è spazio sempre anche per provocazioni, polemiche, insomma un argomento che tocca tutti di interesse, sempre molto caldo. Al 349-238-6666 dicono: vi dispiace, e ora come l'aggiustate la balla che ce lo chiede l'Europa? Credo che si riferisca alla riforma delle pensioni in Italia e eventuali commenti che fatti da questa parte del microfono, che per la verità non ci sono stati. Io dico insomma, ben venga, mi piacerebbe anche a me andare in pensione quanto prima, magari non subito, visto che l'età ancora mi consente di impegnarmi con soddisfazione sul lavoro. Il problema è sempre quello della sostenibilità economica ed è anche per questo che l'Italia ha appena fatto una nuova riforma delle pensioni, perché non ci potevamo permettere di andare avanti altrimenti. La situazione francese è diversa. Marco Mussanè da Parigi ci ha appena spiegato nei dettagli come e quanto questa riforma avrà impatto sulle finanze pubbliche di quel paese. Livia Zancaner, eccoci qua. Allora, gli indici di borsa li ho già detti prima: Piazza Affari più 3,5%, tutte positive le borse. Quella di Milano oggi è forse la migliore in Europa. In cima al listino i titoli del settore bancario. Che cosa c'è da dire su questo, Livia? Sì, allora oggi dobbiamo dire che è andato bene tutto il comparto bancario europeo, che ha chiuso in rialzo di quasi il 4%. Ricordiamo che oggi la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi di interesse invariati all'1%. Il presidente Mario Draghi ha annunciato la disponibilità illimitata di liquidità a 3 mesi per le banche fino al 15 gennaio 2013, quindi le banche potranno beneficiare ancora delle operazioni da parte della Banca Centrale Europea. Dall'altro lato vanno avanti ancora le discussioni tra Madrid, Bruxelles e Berlino sul salvataggio delle banche spagnole, e come ultimo si sono espressi sulla crisi del debito in Europa anche il presidente americano Barack Obama e il primo ministro britannico David Cameron, chiedendo un piano immediato per la risoluzione del debito. Quindi di questi vari fattori ha beneficiato oggi in Europa il comparto bancario e anche ovviamente a Piazza Affari. Telecom, il titolo di Telecom rimbalza dopo il forte calo di ieri. Che c'è da dire su questo, Livia? Sì, allora Telecom, ricordiamo che ieri era scivolata in borsa, oggi vi è una novità, nel senso che la Cassa Depositi e Prestiti ha detto di essere disponibile a partecipare al finanziamento e agli investimenti di Telecom per la rete a banda larga di nuova generazione, un suggerimento accolto dall'amministratore delegato di Telecom, il quale ha detto di essere aperto al dialogo e pronto a collaborare. Il numero uno di Telecom ha inoltre precisato che il titolo Telecom, che gli era toccato i minimi dal 97, ha risentito in particolare del fattore relativo all'uscita dall'indice Eurostoxx. Visto da vicino, il titolo generale oggi non brilla particolarmente, più 3,6%, e quindi diciamo in linea con gli aumenti della Borsa di Milano, che ha chiuso più 3,5%. Visto però in prospettiva, negli ultimi giorni, dal 31 maggio, la crescita, la salita è stata del 14%. Attorno a generali si è scritto e parlato tantissimo, Olivia. Sì, allora bisogna dire che in questi giorni, nelle prossime settimane, sarà un titolo sicuramente da monitorare. Come dicevi tu, appunto, è un titolo che ha perso molto dal 31 maggio, appunto, quando si è iniziato a diffondere la notizia di un cambio al vertice. Le azioni hanno registrato un balzo di quasi il 14%. Diego Della Valle ha dato le dimissioni dal CDA, aprendo così la strada all'ingresso del nuovo amministratore delegato Mario Greco, che potrà ora essere cooptato nel consiglio di amministrazione e sostituire quindi l'ex amministratore delegato per il Sinotto. Parliamo anche un attimo di Fiat, perché i dati sulle vendite, per esempio in Brasile, non sono stati brillantissimi come magari nelle attese recentemente, però il titolo, come spesso accade, ha un andamento insomma anche un po' indipendente rispetto a questo tipo di notizie, Livia. Sì, Fiat in realtà oggi ha guadagnato il 2,35%, allineandosi quindi alla performance del comparto auto europeo, che ha guadagnato oltre il 2,4%. Il titolo era debole soprattutto in mattinata, poi si è risollevato in scialbona andamento della piazza milanese. Ricordiamo che oggi sono usciti i dati sulla vendita di auto in Brasile, Fiat è leader in Brasile e le vendite di nuove auto a maggio sono risultate sotto le attese, ovvero hanno registrato una perdita dell'8,65%, quindi inizialmente vi è stata una preoccupazione del mercato sul possibile andamento della Fiat anche in Brasile. Nella parte alta, insomma, della classifica oggi dei titoli che guadagnano di più a Milano c'è anche Azimut, più 7,79%. Un po' tutto il risparmio gestito è insomma sotto i riflettori in questo momento, Livia. Sì, ci sono buone prospettive nel settore. Azimut ha guadagnato appunto il 7,8%, Mediolanum il 5,37% e Banca Generali oltre il 10%. Su Banca Generali vi sono delle notizie, nel senso che vi sono stati dei dati positivi sulla raccolta del mese di maggio. Gli operatori sottolineano quindi che la performance positiva dello scorso mese, che si confronta con un mercato in difficoltà, rafforza la visione positiva sul titolo. In effetti il titolo Banca Generali ha registrato la migliore performance dell'intero listino milanese. Chiudiamo, abbiamo ancora qualche secondo prima di dover chiudere con te, Livia, con Unipol. Sì, anche sì. Unipol come generale è un titolo sempre sotto i riflettori in queste settimane. Ieri il CDA ha deciso di proseguire nel progetto di fusione con Prema, Finfonsai e Milano Assicurazione, a patto però che si ritorni al piano originario di integrazione. Indiscrezioni di mercato riferiscono che i vertici delle società stanno lavorando nel tentativo di definire un accordo entro questa sera. Vedremo se in effetti sarà così. Grazie, allora, e anche a te buona serata. Livia Zancaner, collega dell'agenzia Radio con il Sole 24 Ore. Buona serata. Buona serata anche a voi. Con cui abbiamo fatto il punto sui mercati. Adesso invece, prima di chiudere e poi di dare la linea al giornale radio, vogliamo fare un piccolo approfondimento sugli scioperi. Scioperi in particolare nel settore pubblico, nei servizi pubblici essenziali, perché come vi abbiamo detto in apertura tra le notizie di oggi, insomma, quelli proclamati sono stati oltre 2.119 l'anno scorso, quelli realizzati poi concretamente sono stati solo, si fa per dire, 1.339 e sono quasi il 7% in più rispetto all'anno precedente. Allora sentiamo, Simone Spezia ha intervistato il presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, Roberto Alessi. Effettivamente nel 2011 la conflittualità è aumentata, e questo con riferimento sia alle proclamazioni degli scioperi generali nazionali che passano da 7 nel 2010 a 20 nel 2011, e sia con riferimento alle proclamazioni dell'intero comparto dei servizi pubblici essenziali. In quest'ultimo comparto appunto il trend di crescita del 6,5%, va anche detto però che gli interventi preventivi della Commissione hanno sortito effetti, diciamo appunto, benefici, perché circa il 90% degli interventi di prevenzione con cui abbiamo contestato la regolarità delle proclamazioni sono andati a buon fine, e quindi cito qualche dato: su 654 interventi preventivi, 512 sono stati gli scioperi revocati e 77 quelli che si sono poi adeguati alle indicazioni dell'autorità. Questo aumento della conflittualità, Presidente, a cosa lo dobbiamo? Immagino alla crisi, alle difficoltà economiche. Le cause sono sempre le stesse diciamo del 2010, quindi all'andamento della crisi economica globale che investa anche il nostro paese. E le cause poi risiedono anche nel fenomeno della contrazione della spesa pubblica, che incide soprattutto in quei settori in cui le aziende operano in regime di convenzione con gli enti pubblici territoriali. E sempre dal punto di vista dei numeri, invece, segnali in controtendenza arrivano da alcuni settori come il trasporto aereo, la scuola, il credito, cali di scioperi addirittura della metà. Sì, è vero, se la conflittualità rimane molto alta nel settore dell'igiene ambientale, raccolta e smaltimento di rifiuti, soprattutto poi nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, e nel settore del trasporto pubblico locale, dove da 5 anni manca il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è altresì vero che invece in altri settori, a partire dal settore del trasporto aereo, che aveva dato invece problemi nel 2010, c'è un calo della conflittualità di circa il 40%. E anche in altri settori. E questo però, ripeto, grazie anche all'attività di mediazione che la Commissione sta facendo con grande scrupolo. Voi richiedete di fatto dei poteri di intervento maggiore? Guardi, la cosa principale da dire è che l'autorità di garanzia è sempre più impegnata nella fase di prevenzione del conflitto collettivo. Noi dobbiamo intensificare questa attività di mediazione, che consiste nel verificare se sussistono le condizioni per la ricomposizione delle varie controversie da cui originano le proclamazioni di sciopero. La vera sfida del futuro si gioca sul terreno della prevenzione. E questa è una sfida ovviamente che l'autorità intende raccogliere nell'interesse generale del Paese, come peraltro abbiamo detto ieri al Capo dello Stato nel corso di un'udienza. Avevamo annunciato due approfondimenti in questa giornata, uno sulla mancata decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse invariati, e ne abbiamo già parlato, un altro sulla ricerca del Centro Studi di Confindustria che segnala come l'Italia stia perdendo quote di manifattura a livello internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto di cui abbiamo già parlato, cioè i tassi di interesse invariati in Europa, la BCE, le parole di Mario Draghi, ne abbiamo parlato con Alessandro Merli da Francoforte, aggiungiamo solo una cosa, sul Sole 24 Ore di domani, dato che uno degli effetti di questa crisi è stato anche il restringimento dei prestiti e dei mutui per le famiglie, un focus di domani sul Sole 24 Ore, effetto crisi, le guide del sole, il tuo mutuo per scegliere il prestito migliore, quali sono i trend del mercato, cosa conviene scegliere tra mutuo a tasso fisso e tasso variabile, insomma l'eterna domanda che ritorna anche in questa fase. Del Centro Studi Confindustria, di quello che dice, parleremo tra un attimo. Giusto un aggiornamento sui mercati, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, giornata brillante per Piazza Affari, più 3,5% sul FTSE MIB in America, il Dow Jones adesso segna più 1,7%, il Nasdaq più 2,06%, positiva tutta l'Europa, anche se Piazza Affari è la migliore. Sono tutti positivi gli indici oggi in Europa, migliori e peggiori a Piazza Affari tra i principali titoli: Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 9,7%, Azimut più 7,79%, Lottomatica più 7,28%, bene anche Finmeccanica in progresso del 7,1%, Telecom, Mediobanca, Mediolanum, Intesa San Paolo guadagnano tutte più di 5 punti percentuale. Tra i peggiori si fa per dire oggi a Milano Ansaldo guadagna solo lo 0,8%, Enel Green Power meno più 0,4%, Parmalat praticamente invariata attorno alla parità. E allora, come detto, analisi sulla manifattura italiana che perde quote nel mondo. Secondo una ricerca del Centro Studi di Confindustria, tra il 2007 e il 2011 siamo passati dal quinto all'ottavo posto nella classifica internazionale, scendendo dal 4,5 al 3,3% di quota nella produzione manifatturiera mondiale. Il calo riguarda l'intera economia europea, quindi non solo l'Italia, a vantaggio di paesi come India, Brasile e Corea del Sud. Per il nostro paese però si tratta di una brutta notizia, di una frenata molto brusca, un dato pesante. Salutiamo Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Tanto che voi parlate di una industria italiana a rischio. Ecco, quando si parla però di quote di mercato internazionale, c'è chi sale e c'è chi scende. Noi siamo superati dall'India, dal Brasile e dalla Corea del Sud. È l'effetto di un peggioramento della nostra capacità di esportare? Sicuramente sì, ci spiegherai quanto. Oppure anche del fatto che questi paesi spingono, questi paesi che erano paesi emergenti ma sono abbondantemente emersi, Luca, spingono di più. Che cosa succede esattamente sulla scena internazionale per quanto riguarda la produzione industriale? Ecco, cominciamo a fare un distinguo importante. Un conto è parlare di produzione industriale, quindi di quota dell'Italia sulla produzione industriale mondiale, e un conto è di capacità di esportare. Sono due concetti che vanno tenuti molto separati e distinti. L'Italia ha perso quote di produzione sia perché c'è un merito di altri, il fenomenale sviluppo dei paesi emergenti da voi citato, e però anche per esempio della Corea del Sud, che è un paese avanzato e che però sta nell'epicentro di questo grande corsa che è quella dell'Asia. Dall'altro c'è il demerito di alcuni di questi paesi, fra cui l'Italia. Allora, il calo della produzione industriale italiana è legata a un tracollo della domanda interna, che non è soltanto dell'Italia ma anche della Spagna, si osserva anche in Francia, si osserva anche in altri paesi, difficoltà di domanda interna. Questo spinge le imprese imprese, a cercare nuovi mercati all'estero, per cui la capacità di esportare rimane forte, rimaniamo competitivi anche in termini di qualità di produzioni, di qualità di prodotti effettuati in una serie di settori, alcuni sono diciamo tradizionali, tessile, abbigliamento, cuoio, calzature, pelletteria, e siamo primi al mondo in quello, in altri siamo secondi dietro la Germania, parlo della meccanica, parlo di prodotti diversi, parlo di manufatti di base, e in questi settori siamo, come dire, abbiamo posti di grande livello e così via. Il punto fondamentale è che in questa fase, con il vuoto di domanda, con i costi di energia che crescono, con il credit crunch, con i tempi di pagamento lunghi della pubblica amministrazione, le imprese rischiano di non farcela. Ecco, dicevi che insomma l'Italia è in buona compagnia purtroppo, perché l'intera Unione Europea che perde quote nella produzione industriale, però poi ci sono anche i mali, e ricordiamo che il calo è dal 27,1 al 21% per quanto riguarda l'Unione Europea, in percentuale mi sembra di capire quasi lo stesso del calo italiano, cioè in questo caso l'Italia è un po' nella media dell'Unione per questa perdita diciamo di capacità di produrre e di imporsi quindi sulla scena internazionale. Però poi ci sono anche i mali italiani, e voi in questa ricerca li elencate, alcuni li stavi già dicendo, Paolo, Luca. Sì, appunto, credit crunch, pubblica amministrazione che non paga, un margini di profitto che in Italia sono molto molto bassi, ci sono mali che riguardano l'universo delle stesse imprese, perché le imprese non sono tutte uguali, c'è stato un marcato sgranarsi fra le imprese capaci di cambiare e di adeguarsi ai tempi e di operare su leve competitive molto complesse, marchi, reti di vendita, ricerca, risorse umane, managerialità, organizzazione, e altre che invece non sono in grado di operare queste leve e quindi tendono a ritrarsi difensivamente e semplificano il loro business fino a diventare contoterzisti, quindi c'è anche un problema che sta dentro i confini a fabbrica. Quello che è vero però è che il sistema paese nel suo complesso, che non fa sistema, che non è in grado di promuovere la manifattura come motore del benessere, perché senza la manifattura, ricordiamocelo, il nostro PIL sarebbe, non dico nullo, ma quasi, perché dalla manifattura dipende il 78% delle nostre esportazioni. Ecco, voi in questo monitoraggio che fate insomma periodicamente, dite questa volta che insomma per rafforzare il nostro settore manifatturiero ci vorrebbe anche una visione, come stavi dicendo tu, economica, industriale del paese, una politica industriale, una visione di lungo periodo. Questo insomma per l'Italia forse è carente da un po', Luca. Che cosa c'è da dire su questo fronte? Innanzitutto appunto bisogna ritrovare questa visione di lungo periodo e non avere la paura di ripronunciare la parola politica industriale. Politica industriale da noi però in passato ha significato moltiplicazione, spreco di fondi, moltiplicazione di soggetti, di obiettivi, di strumenti, iniziative spesso in contrasto fra di loro, clientelismo elettorale. Negli altri paesi, parliamo degli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Cina, l'India, c'è una concentrazione rivolta a aumentare il tasso di innovazione del paese, però attenzione, il salto culturale è anzitutto il paese stesso che deve compierlo, riconoscendo l'importanza del fare impresa e impresa, che ha una funzione sociale, quella di creare benessere, occupazione e possibilmente un'occupazione ben remunerata, ma se diciamo questa impresa invece viene considerata, come avrebbe detto Churchill, una tigre feroce da uccidere o una mucca da mungere, difficilmente si arriva all'obiettivo. C'è anche, ahimè, il capitolo che riguarda gli effetti del terremoto in Emilia-Romagna, una regione dove si produce una quota importante del PIL, anche se poi la zona colpita effettivamente fortunatamente è più limitata, si parla di una quota dell'1% del PIL nazionale interessata da uno stop della produzione che potrebbe durare, chi lo sa, ma insomma qualche mese. Anche su questo fronte purtroppo non sono buone notizie, no Luca? No, però non abbiamo fatto un'analisi sugli effetti del terremoto, ci siamo limitati a dire in una frase che ovviamente colpisce un'area ad altissima vocazione industriale, colpisce dei distretti, delle filiere, facendo mancare magari componentistica o forniture, e questo, diciamo, rischia di avere dei danni di lungo periodo in un'industria che certo non gode di ottima salute, anche se ha grandissime potenzialità. Grazie Luca Palazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, buon ascolto. Allora, avete sentito qual è l'analisi del Centro Studi di Confindustria? Pesante, insomma, per l'Italia, si perdono quote nella manifattura internazionale. C'è anche la questione del terremoto, anche se non c'è una stima precisa in questo rapporto su quale sarà l'impatto economico. Noi tra un attimo, dopo il traffico, andremo proprio a Mirandola, in Emilia Romagna, un comune colpito, tra l'altro al centro del distretto biomedicale, e vedremo un po' di luce, insomma, in fondo al tunnel, vediamo come si tenta di ripartire almeno dal punto di vista delle attività commerciali. Tempismo, buona volontà e aiuti, insomma, è quello che serve in questo momento. E allora andiamo proprio in Emilia Romagna, andiamo a Mirandola, come annunciato siamo in provincia di Modena, e salutiamo subito l'assessore all'economia Roberto Ganzelli. Buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio. A questo punto, senta, adesso lei ci spiegherà che cosa state facendo, che cosa state mettendo a punto per ripartire. Io ho detto un po' di luce in fondo al tunnel, perché insomma le notizie sono queste. Voi state cercando, così nei container soprattutto adesso, di far ripartire le attività commerciali collaterali. Diciamo subito che non stiamo parlando dell'importante distretto economico che c'è. Mirandola è una cittadina, mi corregga se sbaglio, 25.000 abitanti circa. Sì, sì. Al centro di questo distretto biomedicale di cui si è parlato molto, purtroppo gravemente colpito dal terremoto, 800 milioni di fatturato, 4.000 gli addetti, oltre 100 le imprese. Non parliamo direttamente di questo, assessore, con lei, anche se poi magari faremo anche una valutazione su questo. Parliamo invece, ci dia qualche notizia di come avete fatto un po' un appello alle attività commerciali anche del centro della città, perché ricordiamolo, sono città adesso disabitate anche dal punto di vista dei negozi, e quindi per ripartire dal negozio più piccolo a quello più grande si cerca di ricreare, insomma, una vita economica fuori dal centro della città, e voi oggi insomma su questo avete fatto un punto. Esatto. Mirandola non è solo un importante polo industriale, soprattutto biomedicale, ma è anche un importante polo commerciale. È un riferimento per tutta l'area nord della provincia di Modena. Esistono molti sistemi produttivi ma anche commerciali. In particolare il centro storico di Mirandola può vantare un'area molto importante, e noi l'abbiamo sempre definito il centro commerciale più grande dell'area nord. Esistono 200 attività tra commerciale e servizi, e che sono un punto di attrazione che va ben oltre i nostri confini comunali. Abbiamo fatto la scelta di lavorare per mantenere vivo il centro storico, perché indubbiamente la nostra città ha il cuore nel centro storico, come credo molte città italiane. Questa mattina abbiamo chiamato i commercianti, gli esercenti del centro storico e delle zone limitrofe, per proporre loro un progetto che a noi sembra molto interessante. È una sorta di, anche questo, tra virgolette, centro commerciale che dovrebbe riunire tutti quegli esercizi che oggi hanno una prospettiva di chiusura medio-lunga, dai 6 mesi in avanti, e proporre proprio sulla piazza una sorta di incontro per quelli che oggi hanno comunque la voglia di riprendere, la voglia di lavorare, la voglia di mettersi in gioco, e soprattutto che amano Mirandola. Tenga conto che questa mattina abbiamo fatto l'incontro in un prato che si è riempito spontaneamente di tantissimi esercenti, e questo ci ha dato forza, perché abbiamo capito che non solo hanno voglia di riprendere, hanno voglia di lavorare, ma amano il loro paese. Mm. Quante adesioni avete avuto? Lei ha detto che avete fatto insomma una sorta in sostanza di chiamata spiegando che siete in grado di mettere a disposizione esattamente che cosa? Dunque adesso noi ci stiamo raccordando in particolare con la Regione Emilia Romagna, con la provincia di Modena e con la Camera di Commercio, perché chiaramente per fare questa operazione servono delle risorse. Stiamo parlando di non semplici container, ma di una sorta di negozi che sono capaci di essere refrigerati, riscaldati con i servizi, in modo da poter offrire anche una sorta di qualità a chi viene in questi luoghi. E chiaramente tutto questo ha un costo. Noi abbiamo chiesto un interessamento che c'è stato forte dagli enti che li ho prima elencato, chiaramente anche chi occuperà questi spazi dovrà contribuire con un piccolo affitto, noi stiamo cercando di tenerlo il più basso possibile. E la nostra opzione riguarda una sorta anche di occupazione temporanea graduale, cioè vi saranno negozi che dovranno stare lì 6 mesi, negozi che purtroppo dovranno stare lì un tempo più lungo, e a questo punto prevediamo che man mano che i negozi si liberano e quindi le attività commerciali possono rientrare nei loro luoghi originali, di diminuire questo centro commerciale, tra virgolette. Ecco, ma ci spieghi esattamente che cosa avete in testa? Lei dice rianimare anche il centro storico della città. Questa specie di centro commerciale che avete in testa sarà localizzato in una zona precisa della città, oppure cercherete anche di andare dunque noi adesso punto principalmente punto. Partiamo dal centro storico, perché è questo quello che ci preme in particolare, perché il centro storico di Mirandolo, come ho detto all'inizio del mio intervento, rappresenta il cuore della città, che deve continuare a pulsare. È chiaro che oggi il centro storico è una zona rossa e non ci illudiamo di poterlo liberare tutto completamente in breve tempo, anzi vi saranno purtroppo delle zone rosse che rimarranno, crediamo, per moltissimo tempo. Adesso non azzardo previsioni, ma i tempi in alcuni punti sono veramente lunghi, ma allo stesso tempo per il resto della città abbiamo pensato anche a delle zone di civiche, quasi posso dire, dove esiste la posta, la banca, l'assicurazione, l'INPS, che possono dare dei servizi a determinati quartieri e tenerli vivi anch'essi. Sì. Abbiamo poi in mente di fare un mercato esterno di alimentari permanente e un mercato settimanale in una zona più periferica della città, che appunto si offrirà la merce a tutti quelli che sono non solo di Mirandolo ma anche dell'intera zona. Tenga conto che purtroppo ci sono ancora molte persone che hanno paura a rientrare non solo nel loro luogo di lavoro e nelle loro case, ma anche addirittura nei centri commerciali per fare la spesa. Semplicemente sembrano cose vissute dall'altra parte, quasi incredibili, ma purtroppo le posso assicurare che è così. No, immaginiamo che invece siano proprio queste le paure. Le chiedevo prima quante sono insomma gli esercenti, i titolari delle attività commerciali che hanno risposto al vostro appello, perché sembra anche questo poter essere così un indice anche un po' della fiducia che c'è rispetto alle iniziative del Comune, della Regione, delle istituzioni. Tengo conto che abbiamo iniziato proprio oggi a raccoglierle, siamo già arrivati a 300. Poi è chiaro che noi contiamo con le sopralluoghi di poter anche riconsegnare, magari con semplici lavori ci auguriamo, alcuni di questi negozi e di non doverli impegnare tutti in maniera alternativa, però ci stiamo preparando a tutte le evenienze, a tutte le opzioni. Allora allarghiamo un attimo il cerchio e sentiamo il commento del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi sulla questione più ampia invece, che riguarda proprio lo stop alle attività produttive, anche quelle più importanti, alle attività industriali del settore biomedicale dell'area colpita dal sisma, e poi facciamo una valutazione con l'assessore all'economia del Comune di Mirandola. Quello che si teme è, e credo che sia abbastanza vicino alla realtà, soprattutto dopo essere stato lunedì scorso nella zona, è che ci sia uno stop produttivo di almeno 4-6 mesi. Questo avrà nell'area si produce un po' più dell'1% del nostro PIL, quindi rischiamo di perdere una qualche frazione di punto di PIL proprio soltanto a causa del terremoto. Assessore, io ho annunciato un suo commento, in realtà avevo perso di vista l'orologio, siamo in chiusura del programma, io le do 30 secondi per lanciare un messaggio, anche se è poco, anche su questo argomento sollevato dal Presidente di Confindustria. Guarda, io ci tenevo a dire una cosa. Sì. Noi stavamo facendo il piano strutturale comunale della nostra città e avevamo in mente una città diversa. Questo sisma, che è stato terribile e tremendo, ci dà però l'opportunità di rivedere Mirandola da un punto di vista nuovo. Vorremmo costruirla con una sorta di visione diversa, senza ricommettere gli errori che avevamo prima. Quindi sia dal punto di vista produttivo che commerciale, l'occasione che ci si presenta è straordinaria. Io mi fermerei qua, Assessore, perché mi sembra chiaro, lei in 20 secondi è riuscito a dare un messaggio di non poco conto, mi sembra piuttosto significativo quello che lei ha detto, e mi piacerebbe che se lo segnassero molti anche insomma, nell'agenda, molti ascoltatori, politici e insomma, chi dovrà prendere le decisioni in queste ore. Ci fermiamo qua, un ringraziamento a Mauro Del Corno, a Barbara Bianchi in redazione, Paolo Corleoni in regia, ad Alessio Maurizi, buon pomeriggio, l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.